Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mattia è il mio primo figlio. Sono passati circa 5 anni da quando era andato via di casa, dalla Brianza con destinazione Barcellona. Era la sua voglia di vivere, la sua gioventù e la gioia che parlavano per lui. Con coraggio, trattenendo la sorpresa e la rabbia, gli ho detto sorridente: vai, stai tranquillo, ci sentiremo spesso e sarà una bella esperienza. Ciao, sono Gabriele Villa, sono di Meda, provincia di Milano, e sono un artigiano, sono sposato e ho 2 figli. C'è sempre un momento nel rapporto con i nostri genitori in cui ci accorgiamo che loro smettono di essere solo papà e mamma. Non so esattamente come succeda, non credo che succeda all'improvviso. Noi però di solito ce ne rendiamo conto in un secondo, proprio in un attimo. Loro magari dicono una cosa o ne fanno un'altra che noi non ci aspettiamo. Magari lasciano intravedere un tratto che fino a quel momento non avevamo mai visto. E noi realizziamo che nostro padre è prima di tutto un uomo e nostra madre prima di tutto una donna. Basta poco, basta veramente pochissimo. Basta una lacrima che non avevamo mai visto scendere sul viso di nostro padre. Oppure basta un ricordo di un'infanzia che noi credevamo che lui non avesse mai avuto. Perché per noi nostro padre è sempre stato alto 1,80 m ed è sempre pesato 90 kg. E più o meno ha attorno ai 40 anni. Ma basta anche che lui ci racconti della volta in cui è passato a prendere in bicicletta, al paese, una sua fidanzata. Avevano 16 anni. Ecco, basta anche quello per farci capire che lui non è nato al fianco di nostra madre, che non è sempre stata l'unica donna della sua vita. E allora magari ci fermiamo un attimo, e mentre intorno in tavola tutti gli altri continuano a mangiare e a ridere di quell'episodio, noi con il boccone a mezza bocca realizziamo che il nostro padre è stato un bambino. È stato un bambino, poi un adolescente, è stato un ragazzo e solo dopo è diventato un uomo. E ora è anche nostro padre, ma è una persona. È un uomo indipendentemente dal rapporto che ha con noi, perché ad esempio ha un rapporto anche con i suoi amici, con i suoi colleghi, con nostra madre. E non sono solo le cose che fa con noi a dire chi è, ma sono anche tutte quelle che fa e ha fatto con gli altri, per non parlare di quello che pensa, che spesso è molto più nascosto di quanto immaginiamo. Ma quel momento lì prima o poi arriva, quello in cui noi capiamo che nostro padre, forse perché è vulnerabile, forse perché è solo un po' diverso dal solito, è una persona. Ecco, se avete voglia di raccontarmelo, quel momento lì. Oggi io sono qui. 349-238-6666 per mandare un sms, oppure a voi siete qui, @radio24.it, se avete invece voglia di mandare una mail. Però visto che l'altro giorno è stato molto divertente il gioco delle fotografie, oggi vorrei proporvene un altro che ha senso proprio con la puntata di oggi. Visto che oggi racconto questa storia, che è la storia di Gabriele, che racconta di quando lui, quasi in maniera diametralmente opposta, si è accorto di essere un padre, di avere un figlio, e se ne è accorto in un ristorante a Barcellona, di essere un padre particolare, un padre diverso da come lui immaginava. Ecco, e ci ha mandato una foto che è come tutti, però questa foto è molto divertente perché è speculare, sembra un campo contro campo. Sono nel ristorante, ci sono lui e suo figlio uno di fronte all'altro, e sono quindi 2 foto diverse. Se però voi avete per mano al computer in questo momento una foto scattata con vostro padre quando eravate dei bambini, oppure quando l'avete fatta anche ieri sera ad esempio, l'importante è che ci siate voi e vostro padre, e avete voglia di caricarla sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui. Potete farlo, avete tempo tutta la diretta, ma anche dopo. Tra l'altro più tardi vorrei riuscire a leggervi un pezzettino di un libro di Philip Roth che si chiama Patrimonio, e racconta proprio della storia della vita di suo padre, in sostanza, che si chiamava Herman Roth. E in copertina, nella copertina di questo libro, c'è esattamente una fotografia meravigliosa scattata nei primi anni 50 in un luogo di vacanza dove la famiglia Roth andava, in cui ci sono proprio in sequenza, uno dietro all'altro, il papà, il fratello più grande e poi lui, che era il fratello più piccolo. Questa foto è la copertina di questo libro, di cui vi leggerò un pezzo più tardi se riesco, e magari vi leggo proprio il pezzo in cui lui parla di questa fotografia qua e parla del rapporto con il padre. Insomma, se avete una foto con vostro padre, ce l'avete digitalizzata e volete caricarla, al profilo Facebook del programma è Matteo Caccia Io Sono Qui, o magari speditela anche a voi siete

le cose più profonde, ecco questo. Ma questa è una cosa che tu hai semplicemente cominciato a fare adesso e quindi è stato più difficile perché sì, prima non l'ho cominciato a fare adesso quando mi sono accorto dei ragazzi che ci sono in giro per il mondo, io penso, che sono in giro e mi rendo conto di quelli che sono qua. La cosa che io adesso guardo con un altro occhio sono quelli, i ragazzi che sono qui, che arrivano magari come extracomunitari da un altro paese lontano. E allora a questo punto mi viene spontaneo di pensare ai loro genitori, quanto soffrono, che ce li hanno lontani. Senti, perché ti sei antipatico Messi? No, perché quest'estate ero in spiaggia e allora c'era la partita a Barcellona Real Madrid e mi sono accorto che facevo il tifo per il Barcellona. Adesso sono diventato proprio scemo completamente. Gabriele, ti ringrazio davvero tanto per il tuo racconto e la telefonata. Saluta. Grazie Mattia. Ciao, alla prossima, ciao. Grazie. Voi siete qui. Nella foto che mi ha mandato, anzi nelle due foto che mi ha mandato Gabriele, ci sono padre e figlio. Beh, partiamo da lui. Si vede bene il ristorante di Barcellona in cui si trovano e che, come dice lui, è pieno di foto. Ha addosso una polo verde che è veramente poco da verniciatore della Brianza e soprattutto veramente poco da imprenditore della Brianza. Questo, nella mia scarsa fantasia ovviamente, stereotipo, questa collanina che ha addosso da più che altro da venditore da spiaggia della Barceloneta. È abbronzatissimo, ha i capelli corti e ha davanti credo una crema catalana, però sempre per la mia scarsa fantasia. E invece Mattia c'ha una faccia veramente simpatica, sarà per gli occhiali che indossa, che sembrano, sapete, gli occhiali da sole di quando si andava a sciare da bambini, solo che sono da vista. Ha una magliettina rosa e devo dire che ha già qualcosa di suo padre. Le foto, visto che mi chiedete dove sono, non sono sul profilo Facebook, sono sul sito, sono alla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24. È molto facile, cercate Radio 24, Voi Siete Qui e ci andate, trovate le foto, trovate i brani musicali che mandiamo in onda ogni puntata e trovate la mappa che si sta sempre di più allargando, che è una mappa di questo paese dove ci sono tutti i racconti che abbiamo raccontato, tutte le storie che abbiamo raccontato fino ad oggi, dislocate banalmente, geograficamente là dove si trovano. Però l'impatto visivo è molto interessante. Poi ho rotto talmente le pale a Valeria per avercela che per forza devo dire che è bella. Allora Fulvio mi scrive: il verniciatore di mobili in Brianza si chiama Lustru ed è molto ben pagato. Ti pareva che non bisognava sottolineare che era molto ben pagato? Esatto, polemica da falegname che invece si leggeva dietro questo messaggio: io mi faccio così e lui invece, se vince la vernice, guadagna tre volte tanto me. Torniamo ai padri invece. Giorgio scrive: i padri sono come i professori, senza sesso e onniscienti. E poi c'è un messaggio di Federico che è bellissimo, che dice: Italo è alto 2 metri, pesa 100 kg, è del 1931, granatiere da giovane e poliziotto nella vita. Mi sono accorto della sua vulnerabilità la prima volta che l'ho lavato. Mio padre ora ha l'Alzheimer. Ciao Federico. Pure io ho seguito mia figlia, dice un padre evidentemente, prima in Svizzera dove si è laureata, ora master in Francia, ma anche nelle cose più banali quando viveva in Italia. Ma le reazioni sono state opposte a quel padre. Sono gli amici di una figlia che chiedono di me e si domandano perché i loro padri non siano così. Questo mi ha fatto pensare molto e così spesso divento il padre di tutti. 349-238-6666. Mi è arrivato un altro messaggio di Valentina ed è la dimostrazione che probabilmente quella parte umana del proprio padre o dei propri genitori viene fuori proprio banalmente nei momenti di fragilità. È successo pochi mesi fa. Mio padre ha perso il lavoro. Dopo tanta fatica a soli 2 anni dalla pensione. È sempre stata una carica di adrenalina per tutti. Credevo non ci fosse nessuno più forte di lui, e invece mi sbagliavo. Da quel momento ho conosciuto l'uomo fragile con poche speranze per il futuro, che non si sente più di aiuto per la sua famiglia. Scusatemi, ho perso il messaggio. Niente, ve lo leggo dopo. Adesso vi leggo invece questo pezzo che ho trovato al volo, che è un romanzo di Philip Roth che si chiama Patrimonio. Tra l'altro abbiamo caricato sul profilo Facebook del programma proprio la copertina, che è la foto di famiglia, della famiglia Roth, il pezzo che vi sto per leggere parla proprio di quella foto lì. Parla di come Philip Roth si immagina e gli sembra di ricordare esattamente il momento in cui è stata scattata quella foto, solo che in quel momento, mentre lui lo racconta, si trova a casa del padre, che è molto malato, che è nel New Jersey, e lui cerca di cancellare il tempo che è passato da quella foto al momento in cui si mette a raccontare. Sulla credenza di fronte al sofà c'era l'ingrandimento dell'istantanea scattata 52 anni prima. con una macchina fotografica a cassetta sulla costa del New Jersey, che anche noi, mio fratello e io, avevamo incorniciato e messo bene in vista ciascuno nelle proprie case. Nella foto siamo in posa, in costume da bagno, un rot dietro l'altro. Siamo sul prato antistante la pensione di Bradley Beach, dove la nostra famiglia affittava una camera da letto con uso cucina ogni estate, per un mese. È l'agosto del 1937. Abbiamo 4, 9 e 36 anni. Ci drizziamo tutti e tre verso il cielo, formando una V, di cui i miei sandaletti sono la base appuntita e le spalle larghe di mio padre le due imponenti terminazioni della lettera. Sì, quella che spicca sulla foto è la V di Vittoria. Di vittoria, di vacanza, di diretta e distesa verticalità. Eccola lì, la linea maschile intatta e felice in ascesa dalla nascita alla maturità. Ecco, unire in una sola immagine la robusta solidità dell'uomo nella foto con lo sfinimento dell'uomo sul divano era e non era un'impossibilità. Cercare con tutta la mia forza mentale di unire i due padri e farne una cosa sola era un'operazione sconcertante, infernale addirittura. Eppure, tutto a un tratto, io sentii, o mi costrinsi a sentire, che potevo ricordare perfettamente, o costringermi a credere di ricordare, il momento preciso in cui era stata scattata quella fotografia, più di mezzo secolo prima. Potevo credere addirittura, o costringermi a credere, che solo in apparenza le nostre vite erano filtrate attraverso il tempo, e che ogni cosa, in realtà, accadeva simultaneamente. E quindi io mi trovavo tanto qui a Elizabeth, con mio padre quasi fiaccato ai miei piedi, quanto a Bradley, con lui torreggiante sopra di me. Well, I'll tell you one thing that I know. You don't face your demons down. You gotta grapple them, Jack, and pin them to the ground. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Vito da Crema ci tiene a precisare che i lustru, o lustru, sono quelli che carteggiano mobili e li preparano per il verniciatore. Lo fa la mia badante, cioè mia moglie. E poi non sono nemmeno bene pagati, prendono 7 euro all'ora. E va bene, questo è giusto per la precisione. Ma io vi prego, se avete un computer, andate sul profilo Facebook di questo programma, Matteo Cacci, che sono qui, e guardate la foto di Fioravante Scognamiglio dal titolo La prima comunione di tutti gli Scognamiglio. A parte che non capisco come è possibile che l'abbiano fatta tutti insieme, a meno che non fossero tre gemelli. Ma è una foto in bianco e nero, sono in 5, il papà e la mamma dietro e i tre bambini con la due maschi e una femmina in mezzo. Alle spalle c'è una macchina che credo sia una 600 forse. E dei tre, io spero che Fioravante sia l'ultimo tutto a destra, che c'ha una faccia che c'ha veramente le palle girate, sai, proprio tipo io già non volevo fare la comunione, non volevo fare nemmeno la foto. E invece il papà c'ha proprio la faccia di quello che... Allora, venite qui, dai, venite qui che facciamo sta foto, forza, venite qui. 349-238-6666. Mi scrivono anche il primo Natale senza papà. Ah no, scusatemi, eccolo qua. Oggi è partito mio figlio, 25 anni. Edoardo si chiama. È partito per la Nuova Zelanda. Sono devastato. Nino, e noi ti siamo vicini. Magari se non l'hai sentita dall'inizio, riascoltati questa puntata. Chi lo sa, magari ti può dare una mano. Ringrazio quelli che hanno fatto sì che anche questo programma fosse in onda oggi. Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Stefano D'Andrea e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Gabriele, parlava dell'essere padre. Quella di domani è la storia di Manuel, che è un pilota d'aerei e parla di vivere di notte. Sono le 18, tra poco ceno e vado a dormire. Stanotte sveglia alle 23.30 e a mezzanotte sono fuori. Presentazioni in aeroporto a mezzanotte 45. Il decollo è previsto all'1.45. Gli orari sono abbastanza pesanti, ma io non vedo l'ora. Mi piace. Stanotte il mio sarà un volo ferry, il che significa aereo vuoto.